Buongiorno Palestina, siamo di nuovo qui dopo un mese e mezzo di chiusura a continuare le nostre trasmissioni e in studio c'è Claudio, io Marisa e i tecnici Gianni e Gianna. Oggi pensavamo di colmare questo periodo di assenza di discussioni, comunicazioni, facendo una rassegna stampa curata da Claudio, che si occupa quotidianamente della rassegna stampa per l'associazione Amicizia Italo-Palestinese, e, rassegna che potete andare a vedere su internet cliccando semplicemente Amicizia Italo-Palestinese. Quindi questa rassegna stampa che farà Claudio viene fuori dalla ricerca di una serie di notizie, documentazioni che vengono prese da vari mezzi di comunicazione, come mezzi stampa o televisivi o radio palestinesi, israeliani, americani, proprio per cercare di avere varie sponde sul quale incentrare poi l'attenzione e sintetizzare, diciamo, la notizia, e anche per far vedere le differenze di comunicazione. Allora, diamo a questo punto voce a Claudio, che inizierà la sua rassegna stampa. Partirò da un articolo che abbiamo intitolato «Israele riesce a scampare dalla lista nera delle violenze ai minori». Ora, questa lista nera è un rapporto che viene fatto dalle Nazioni Unite ogni anno, in cui vengono elencate le nazioni o le situazioni in cui ci sono maggiori violenze ai minori. Ora, tra uccisi e menomati da parte di Israele sono 2.800 i minori palestinesi colpiti dai militari israeliani solamente nel 2018. Questo è nella relazione del segretario generale dell'ONU, di Antonio Guterres. Ora, queste dovrebbero essere immesse in questa lista della vergogna che viene pubblicata ogni anno. Non lo è stata, perché ovviamente Israele gode di una lobby potentissima che riesce ad oscurare e a insabbiare le inchieste che vengono fatte sul suo operato. Ora, la maggior parte di questi feriti e uccisi si tratta di 2.700 feriti e 59 minori uccisi. La maggior parte di questi alla marcia del ritorno di Gaza. Ora, sono state molto forti le pressioni da parte di Israele per rimanere fuori dalla lista della vergogna, così come è rimasta fuori dalla lista della vergogna anche l'Arabia Saudita e la coalizione con cui bombardano indiscriminatamente nell'ambito del Golfo, verso lo Yemen, insomma. Questa è la prima notizia. Una seconda notizia che mi pare importante, anzi, che è una serie di... Anzi, io prego le mie interlocutrici di interrompermi quando non cito le fonti. Allora, perché dunque? La fonte di questa notizia che vi ho detto ora è Mondovice, che è una fonte israeliana, della sinistra israeliana. Ma quelle di cui vi parlo adesso è una vicenda invece abbastanza lunga, spero di avere il tempo per raccontarla tutta, perché riguarda un boomerang che si è tirato addosso Trump. Allora, dunque, ci sono una serie di cose successe prima, e le cito, adesso poi citerò man mano gli articoli, anzi... E prego le mie interlocutrici di interrompermi per chiedermi ogni volta dove ho trovato determinate informazioni. No, perché, e vi spiegherò perché è importante. Per questo motivo. Perché a seconda della fonte di informazione tu sai chi sono i suoi lettori e quindi quanto quella notizia è diffusa e in che ambito è diffusa. Allora, Partiamo da un pregresso. Il pregresso è questo. Negli Stati Uniti c'è un gruppo di quattro donne che vengono chiamato The Squad, o la squadra. Queste qui sono quattro donne che sono state elette al Congresso e che sono quattro democratiche, sono quattro di colore, e che si sono opposte a Trump quando Trump, in diverse occasioni. Trump ha fatto fare una legge anti-BDS, anti-boicottaggio di Israele, e loro hanno fatto una controlegge in cui, che è stata approvata dal Congresso, di sostegno al BDS, senza dire BDS di Israele, ma a sostegno del boicottaggio come forma lecita di forma di lotta non violenta. Trump ce l'ha a morte con loro e le ha definite incomode e si è augurato che tornassero ai loro luoghi di origine. I luoghi di origine, dice che tornassero dove sono nate. Tre di queste sono nate in America, una è nata in Somalia e si è spostata in America all'età di 2 anni, insomma, americane, insomma. Il fatto è che sono contrarie a Trump. Ma però vorrei subito dire che non sono le quattro donne loro sole che sono contrarie a Trump o che hanno posizioni favorevoli al boicottaggio di Israele. Si stanno trascinando dietro tutta una serie di personaggi del Congresso americano. E su questo ci torneremo magari più tardi. Allora, che cosa succede? Allora, questo atto la primo... Fonte, eh? Claudio La Fonte. La Fonte. La Fonte, allora, di ricordarti, sì, no? È vero. La Fonte è il Guardian. Il Guardian è un giornale di sinistra inglese. Allora, grazie. Dunque, secondo atto, secondo punto. Allora, a Detroit si svolge una riunione di alti personaggi del mondo ebraico, del mondo finanziario ebraico, cioè gente con i soldi, per far fuori la Tlaib. La Tlaib è una di queste quattro donne, anzi, di queste quattro donne, si chiama Tlaib ed è di origine palestinese, è di genitori palestinesi, lei è americana. E loro si sono riuniti per raccogliere dei soldi e per cercare di farla fuori alle prossime elezioni. Le prossime elezioni in America saranno l'anno 21, nel 2020. Bene. La cosa ha fatto scandalo in America, cioè c'è stata una rabbina in particolare che se l'è presa molto violentemente verso questo gruppo, tra l'altro questo gruppo di ebrei, di finanzieri ebrei, insomma, perché una manovra di questo genere è stata considerata una manovra vergognosa. La notizia, ecco adesso quello che mi diceva prima Gianna, dove ho trovato la notizia? La notizia l'ha data un'agenzia ebraica. No, questo per dire quanto è complesso il mondo ebraico americano. Il mondo ebraico è tutto complesso, ma comunque andiamo avanti. Allora, che cosa succede? Che l'AIPAC è l'agenzia americano-israele per le pubbliche relazioni. Di fatto è il gruppo di pressione e la lobby più potente che c'è negli Stati Uniti. È stata fondata nel 1951 ed è potentissima negli Stati Uniti. L'AIPAC organizza ogni anno un viaggio in Israele e lo finanzia abbondantemente. Quest'anno ha mandato non solamente deputati conservatori, insomma repubblicani, ma anche per la prima volta 41 deputati democratici, i quali sono tornati molto freddini, cioè nessuno si è mostrato particolare entusiasmo dopo questo viaggio in Israele. In Israele ovviamente gli fanno vedere come è brava Israele, come le cose magnifiche che fa, l'agricoltura, l'industria, la ricerca e tutto quanto. E però di questi nessuno poi ha mandato dei tweet o dicendo quello che aveva visto. Tutti zitti, insomma, freddini, freddini. A un certo punto la Tlaib, l'americano-palestinese, e la Omar, che è un'altra di queste donne di cui parlavo prima, no? Delle quattro donne, chiedono loro di andare, che sono deputate americane, chiedono loro di andare in Israele, di andare in Israele e in Palestina. Per entrare in Palestina bisogna passare per forza da Israele, perché le frontiere sono tutte controllate da Israele, quindi uno per entrare in Palestina, deve, anche se passa dalla Giordania, deve comunque passare attraverso una frontiera israeliana. Quindi loro chiedono di andare in Palestina. A questo punto scatta Trump, che dice: queste sono contro Israele, perché sono per il boicottaggio, perché sono delle nemiche di Israele. E quindi non gli va dato il permesso di andare in Israele. Tra l'altro, da notare, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti aveva detto: queste le consideriamo delle nemiche, però sono delle deputate del governo degli Stati Uniti, queste dovrebbero poter entrare. Netanyahu invece dà retta a Trump e vieta l'ingresso alle due deputate in Israele. A questo punto arriviamo al dunque. Cioè, Trump esulta, perché dunque lui dice: io ho fatto vietare l'ingresso in Israele a queste due. Queste sono nemiche di Israele, quindi gli ebrei americani dovrebbero apprezzare quello che ho fatto e votare repubblicano. Siccome la maggior parte degli ebrei americani vota invece democratico, che cosa va a dichiarare Trump? Dunque, va a dichiarare che, fatemi trovare la citazione, un attimino, dove è andata a finire? Un momento, eccola qua. Che cosa va a dichiarare? Dice, io penso che qualunque ebreo che votasse per i democratici mostrerebbe una totale ignoranza o una grande slealtà. Ora, non solo, ma successivamente dice quest'altra cosa: le parlamentari Omar e Tlaib sono la vera faccia del Partito Democratico e loro odiano Israele. E quindi dice letteralmente: se votate per un democratico, agli ebrei americani, se votate per un democratico siete sleali nei confronti del popolo ebraico e siete molto sleali nei confronti di Israele. Ora, forse a noi questo termine slealtà dice il giusto, ma a un ebreo parlargli di slealtà è parlare di corda in casa dell'impiccato. Perché tradizionalmente tutte le discriminazioni, le persecuzioni che sono state fatte nei confronti degli ebrei, specialmente nell'Europa dell'Est, erano tutte basate sul concetto di lealtà o slealtà. Perché i gruppi ebraici, in quanto gruppi chiusi, erano considerati sleali nei confronti dello Stato in cui si trovarono. Allora, che cosa è successo? Come risultato di questa bella pensata di Trump, che su questo concetto della doppia lealtà, che loro dovrebbero essere leali a Israele, però agli Stati Uniti, a chi sono leali, è successo un pandemonio da parte dei gruppi ebraici, ma non da parte dei gruppi ebraici di sinistra, in primo luogo da parte della Anti-Defamation League. La Anti-Defamation League è una struttura di protezione dell'immagine di Israele che è, diciamo, decisamente di destra. E questo è il coordinatore dell'Anti-Defamation League dice: Trump la smetta di usare gli ebrei come un pallone da football per i suoi giochi politici. Perché l'intenzione di Trump era io faccio Io ho fatto questo favore di non mandare le due deputate in Israele, e gli ebrei mi saranno ben grati, no? Queste sono le risposte. C'è il presidente dell'American Jewish Committee, che è anche un'associazione americana, non certo di sinistra, che dice: gli americani non sono dei votanti a senso unico, per favore tenete il concetto di lealtà al di fuori delle vostre mene politiche. Il Jewish Democratic Council, vabbè, questo è un gruppo democratico, dice: se si tratta di lealtà a Israele, allora Trump sta parlando di una doppia lealtà, che è una forma a cui ha sempre attinto l'antisemitismo. E questa è la cosa più chiara, dice, questo viene a parlare di doppia lealtà proprio a noi ebrei. Insomma, è successo un pandemonio. Quindi questa bella furbata di Trump si è tramutata in un bel boomerang per lui. Non solamente, poi l'AIPAC a sua volta, l'AIPAC, che è questo gruppo lobbistico americano, ha sostenuto che Tlaib e Omar avrebbero dovuto andare in Israele, quindi anche AIPAC ha dato torto a Trump. Quindi, insomma, il pasticcio l'ha combinato proprio bello. Beh, buon per noi. Allora vado avanti. Dunque, seconda notizia, che ha sempre un po' a che fare con Israele e Stati Uniti, poi l'ho smesso con gli Stati Uniti. Cioè, però è questa dello Stato ebraico unico oppure due Stati, no? Questa cosa dei due Stati ormai è chiaramente tramontata, in quello che almeno ogni persona ragionevole pensa. Però questo sta seminando una notevole confusione tra i deputati americani al Congresso, i quali tutti continuano a sostenere la soluzione dei due Stati, e la realtà americana. Ora, la realtà nei sondaggi, quello che risulta, è che la maggior parte degli americani alla soluzione dei due Stati non ci credono. E i repubblicani su questo hanno una posizione molto chiara, che è quella di Netanyahu, di dire: a noi lo Stato deve essere uno solo, Israele e i palestinesi fuori dalle palle. Questa è la posizione dei repubblicani. I democratici invece sono ancora ancorati a questo discorso dei due Stati e non sanno come gestirsi questa palla. E quindi, c'è una grande incertezza tra i repubblicani, cioè tra i democratici, e anche tra le associazioni ebraiche, perché questa questione dello Stato unico sta diventando una bomba all'interno del mondo ebraico, perché ci si chiede: allora, se lo Stato diventa uno solo, che tipo di Stato è? Che tipo di Stato diventa? È uno Stato che uccide tutti i palestinesi, che li manda fuori, che fa due tipi di popolazioni, la popolazione ebraica e la popolazione palestinese? Questa, a casa mia, si chiama apartheid. Allora è lo stato dell'apartheid che viene fuori. Ecco, questa è una bomba che si trova una patata bollente che le comunità ebraiche oggi si trovano per le mani. Però è anche una cosa questa, che dovrebbe, questa estrema confusione, questo caos che c'è e questa anche discussione che c'è all'interno del mondo ebraico, dovrebbe essere qualcosa in qualche maniera che incoraggia i palestinesi, perché la loro presenza a questo punto è ingombrante, ma non sanno come sbarazzarsene, non sanno come gestirla attualmente. Sì, Netanyahu con la brutalità, ma la brutalità arriva solamente fino a un certo punto. E quindi il mondo ebraico da questa situazione è in modo crescente scosso e privo di una capacità di trovare una soluzione. Claudio, posso dirti una cosa? Perché da questo discorso mi hai fatto venire in mente che l'America potrebbe dare un esempio lampante di quello che è avvenuto, cioè nel senso cosa sono stati fatti agli indiani americani. Sono stati messi nelle riserve. Lo Stato è unico, ma ci sono riserve. E se te guardi, e chiunque può guardare a questo momento la tomomastica della Palestina, si rende conto di come la presenza dei palestinesi è fatta a macchia di leopardo. Sono già quasi sistematizzate le varie riserve. Si tratta solo di definirle a livello amministrativo, c'è quella più grande e quella più piccola, e quindi dico, l'esempio ce l'abbiamo. Non sarebbe, purtroppo, perché certo questa non era la soluzione caldeggiata o pensata nei decenni trascorsi e anche per il futuro, però potrebbe essere una strada già percorsa e accettata. E come è successo anche per altre popolazioni indigene nel Sudafrica e in Australia, ne abbiamo tanti di esempi. Non vorrei pensare che questo è il futuro che aspetta i palestinesi. Ma dunque, gli indiani d'America sono stati soggetti a quello che non è il termine che si usava allora, ma durante l'Ottocento furono sottoposti a un olocausto, perché ne furono ammazzati milioni. Attualmente sono cittadini americani, però sono in riserve, sono più poveri, sono alcolisti, sono lo stato più povero della popolazione, ma sono cittadini americani, cioè uguale cittadinanza. Questa sarebbe una possibilità per i palestinesi. Per i palestinesi non è possibile oggi fare un olocausto. Di olocausto nel Novecento se ne è fatto uno, e non è accettabile, non sarebbe possibile che ne venisse fatto un altro. E poi c'è anche un'altra questione rispetto alle tue parole, nel senso che Israele sta già dando la cittadinanza, però con la famosa legge varata dello Stato-Nazione è il primo e l'unico paese in tutto il mondo in cui non si è cittadini, cioè te sei israeliano e hai cittadinanza ebrea. Te palestinese vivi in Israele, sei cittadino israeliano, ma hai cittadinanza araba, quindi di serie A e di serie B, e questo fa definire Israele uno stato etnocratico. Quindi questo, cioè, se rimane così, è un ostacolo fortissimo anche a quella soluzione non certo auspicabile di cui dicevo prima, no? Delle riserve. Quindi il nodo è ancora più ingarbugliato per quanto riguarda la soluzione che può essere caldeggiata. Io ti posso solo, per finire, rammentare una cosa, che quando sono andata in Palestina, nei vari incontri abbiamo fatto su questa questione, cioè la vecchia guardia dei militanti palestinesi sono, forse anche per abitudine, per nostalgia, ancorati ancora al discorso dei due stati, anche se si rendono conto che appunto la politica selvaggia e violenta degli insediamenti israeliani non permetterebbe più questi due stati. Le giovani generazioni, tutti quanti, ci hanno detto all'unisono che loro sono per un unico stato democratico in cui ci siano le rappresentanze di tutti gli abitanti di varie etnie presenti in Israele. Chiaramente questo è comunque una soluzione che non è ben vista e non è minimamente pensata da Israele. Quindi questo complica ancora di più la questione palestinese, che veramente sta diventando, per dirle in maniera allegra, un tormentone da decenni, con una soluzione veramente molto ancora lontana, soprattutto per il popolo palestinese. Io posso aggiungere, anzi, a questo proposito, che c'è già stato un tentativo da parte di Israele di isolare Gaza, proprio creare uno Stato isolato, quindi, dal resto della Palestina, cosa che i palestinesi ovviamente non accettano, non hanno mai accettato, e credo che non sia una strada da percorrere. Anche perché non si tratta di accettarlo, nel senso, si tratterebbe di soccombere alla violenza predatoria israeliana. Ecco, un dato di un sondaggio fatto l'anno scorso: è il 64% degli americani sarebbe, nel caso che non si possa fare e non si riescano a fare i due stati, di avere uno stato solo democratico, rinunciando al termine stato degli ebrei, stato ebraico. Io nell'ultimo scorcio che abbiamo, sì, volevo, però a proposito dei diritti, a proposito di diritti di palestinesi, volevo parlare di una cosa che abbiamo anche citato nella rassegna stampa, cioè sulle modalità di voto. Cioè, nelle ultime votazioni è successo che sono state collocate 1.300 camere, come si dice, videocamere nei siti dove votavano gli arabi, dove c'è una prevalenza di votazione degli arabi. Ora, questo ha dato questo nei seggi. Ora, questo ha dato luogo a una serie di proteste, e queste videocamere non sono state installate da parte dello Stato, ma da parte del Likud, che è il partito di destra, che è il partito di Netanyahu, da parte di suoi attivisti. E sono state lasciate queste fotocamere. Adesso ci saranno le elezioni il 17 di settembre, perché Israele va di nuovo alle elezioni, e la questione delle fotocamere non è ancora stata risolta. È stata portata a livello legale, e la risposta da parte del presidente della commissione elettorale, un certo Meltzer, sostiene che fino a che le telecamere non fossero installate all'interno della cabina elettorale, la loro presenza non intacca il diritto di privatezza privatezza del voto. Dico, ma uno direbbe me coglioni, ma insomma, addirittura dentro la cabina elettorale la vorreste la fotocamera? No. Controllare meglio il voto dei palestinesi. No, ma è chiaro. Dove sono queste videocamere? Scusa la domanda un po' stupida. Come? Dove sono queste videocamere? Queste videocamere sono posizionate. Queste videocamere sono all'interno dei seggi, quindi vedono uno che mette la scheda, che ha votato. Allora, io dico, che cosa vuol dire questo per un palestinese? Per un palestinese vuol dire tu hai votato, tu sei. Perché allora il risultato, tra l'altro, il risultato elettorale è che per la prima volta in Israele la percentuale degli arabi che hanno votato è stata inferiore al 50%. Quindi di questo si sono molto vantati quelli che hanno installato le videocamere, perché dice vedi, non hanno fatto imbrogli. No, non è che non hanno fatto imbrogli, è che sono stati intimiditi. Perché un arabo che va a votare, per chi voterà mai? Per l'estrema destra, ma molto improbabile, voterà per un partito arabo. Quindi tu, se non sei andato a votare, vuol dire che sei bravo. Se vai a votare, vuol dire che voti contro di noi. Questa è l'intimidazione che viene fatta. Una forma di schedatura. È una forma di schedatura. Che Israele fa con. Ecco, questo fa ricordare anche le votazioni quando ci fu il referendum per il fascismo in Italia, no? in cui una scheda era tricolore e l'altra era bianca. La busta era trasparente, quindi si vedeva uno per chi aveva votato. Va bene. La sovranità del popolo si fonda sul diritto di voto e solo in questo caso si può parlare di uno Stato democratico. Bene. Dunque, altre cose ce ne sarebbero, ma il tempo è quello che è. Sì, quindi... il tempo è finito, ci dobbiamo salutare e quindi ci risentiamo la prossima settimana, sempre alle 7 di mercoledì prossimo. Un saluto caloroso da tutti noi. شمس يا وطني تشرق في بدني وتضيء.